vento di marea, vento che non ha odi, odissea di un dio. Oh mio dio, io di dio di un poeta divino. Io me stesso narciso, violino, solipsistica danza nero. Ricomincia la mia eterna danza, un illuminato danza. Io che sono del me, l'eterno guinzaglio. Io mentre mangio foglie di verde miglio, punzecchiato da ironi, mistica, regno dell'acida visione. Mare acido inietta un angelo nella mia stanza. Baudelaire rinato io nel profumo, non do il fatto ma di tatto mio. Suicidi nelle periferie, genitori lacrime di autopsie, centri di madri devastati da figlie e figlie ignorate. Dentro nobili croci di canti, proiettili si conficcano intanto, disincanto sul loro volto, il rivolo del mostro denaro fiato alato tolto. Canti spezzano le migliori menti, mentre fuggono loro altrove, ove è l'oro. Incubi senza fine, incubi senza anime, sporgono giù da veri rime di piogge di gocce di lacrime. Si fidi della vita traditrice di sporca meretrice, autrice, mano fantasma del concetto di dramma. Sogna il nostro ermo, l'elmo della visione. Soldato, soldato, soldato, sparato, sparato, caduto nel drammatico, eroico prato. L'incubo anche oggi è ricominciato, dipendenza, agitato, disarmato, fiato, rantolo, graffiata, gola di matto, patto con sua santità di inferi fatto. Ratto prende tutto la penna del poeta, nutrendosi di inchiostro di dieta, che mangia chi crepa. Solitario il verso è sempre più triste, vieta tutto sta vita de... Suicidi nelle periferie, genitori in lacrime di autopsie, centri di madri devastate da figli e figli ignorate. Dentro a nobili croci di canti, proiettili si conficcano intanto, disincanto sul loro rivolo del nostro denaro fiato alato tolto. Canti spezzano le migliori mentre fuggono loro altrove, ove è l'oro. Incubi senza fine, incubi senza anime, incubi senza l'oro, sporgono giù da veri rime di piogge di gocce di lacrime. Si fidi della vita traditrice di sporca meretrice, autrice, mano fantasma del concetto di dramma. Ci fa scrivere rime false di fogne, sogna il nostro ermo, l'elmo della visione. Soldato, soldato, soldato, sparato, sparato, caduto nel drammatico, eroico prato. L'incubo anche oggi ricominciato, dipendenza, agitato, disarmato, fiato, rantolo, graffiata, gola di matto, patto con sua santità di inferi fatto. Ratto prende tutto la penna del poeta, nutrendosi di inchiostro di dieta, chi mangia chi crepa. Solitario il verso sempre più triste, vieta tutto sta vita de... Suicidi nelle periferie, genitori in lacrime di autopsie, centri di madri devastate da figli e figli ignorate. Centri devastati di madri da figli e figli ignorate. Dentro nobili croci di canti, proiettili si conficcano intanto, disincanto sul loro rivolo il mostro denaro fiato a lato tolto. Canti spezzano le migliori menti mentre fuggono loro altrove, ove è l'oro. Incubo senza fine, incubi senza anime, sogni di rime, sporgono giù da veri rime, di piogge di gocce di lacrime, si fidi della vita traditrice di porca. Thank you. Rolex non basta, un Rolex passa il tempo e non basta. E lei passa di qui poi resta. Un Rolex non sembra, un Rolex tempo di fare il cash, baby, per me, per te resta. Un Rolex è il mio caffè, un Rolex se piove, pioggia di lacrime su vetri di sfume, di fumo, vetri fumé, baby, asciughiamolo insieme sto fiume di lacrime. Di passato resta con me e le mie rime, brindiamo io e te, dimentichiamo ex. Un Rolex è il tempo sode, tra le persiane e la polvere, raggi di sole d'angelo sui nostri corpi, diavolo, restiamo, vogliamo. Un ticchettio di ore Russian roulette, di un amo e non amo, ma se premi il grilletto danno, danno, danno, fallo, se no dimentica tutto e tutto con me. Rolex di un tempo senza lacrime io e te, senza regole di note, di notte rotte di mani e cosce contro il male di ieri. Roccia di falsità, tra i miei passi doveva essere rock and roll, invece fu la festa, festa dei falsi. Rimo, ramo d'ulivo, poeta, spartito bilinquo. Rimo vincerà la simpatia, uccido il damerino. Miro, fuoco, uccido. Mi rivieni, mi vicina, vedo oltre io e te per sempre, che tu sia d'accordo. Per me seriamente, dalle tenebre, dalla luce, io con te vivrò per sempre. A lato più che mai la mia bio tiene te, sovra guai dove tu sentirai bla bla. Non arriveranno, non arriverà agorafobia di te, se mai sarai solo mia, avverrerai con la tua bocca, bocca d'oro, narciso in un bacio, sogno biennale Venezia, entrando strafatto in un over di colori, mentre dalle fauci leone e leonessa in pubblico vomitano arcobaleno di fiori su un Dalai Lama. Al no, alla guerra di no, di no, di no, alla fobia di Putin, di no alla guerra, su di noi amor. Toujours Nobel di pace, un bacio di cigno, becco nero verace, falli a pezzi, falli o fai per noi, se vuoi arabeschi intorno alla casella, sì, vuoi. Sposi noi, vorrai cigni decadenti, in calici d'annata, scoleremo dentro, in dimenticanza, tutti i nostri guai, faremo l'amore finché orgasmi multipli avrai, fiera guerra, dentro pace avrai.